Bentrovati tutti, bentrovate tutte. Sono Claudio, solo per dare il benvenuto appunto a tutti coloro che vorranno visitare questo blog, come si sarà capito dall'indirizzo web, Politici per la pace ora è come l'araba fenice. Io non ci avrei scommesso 5 euro, però è tornato a distanza di 8 mesi. A meno di 24 ore dall'apertura di questo piccolo blog politico, ecco, sono già più di 50 le visite. Io non so come possa essere accaduto, ma immagino che la rete sia un grande strumento di democrazia. Vi aspetto quando vorrete per verificare che cosa sorge all'orizzonte nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, di nuovo, e speriamo di proficuo per tutti quanti, di bello e di carico di speranza.